Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Iginio Liberali, l'avventura fortunata di Luve, multinazionale della refrigerazione fino al Bolshoi, di Anna Marino. Bolshoi vuol dire grande, però è certamente un luogo, un tempio. E quello che impressiona è il livello, non conosco la danza classica, non sono, ma il livello di esecuzione al Cremlino, dove c'erano 500 ballerine. Da quelle della prima classe che avevano, non so, 5 anni, 4 anni, fino alle stelle del Bolshoi, che era uno spettacolo di una bellezza e di un rigore, perché la bellezza collegata al rigore, perché è una cosa molto, molto tecnica. Lo spettacolo più entusiasmante che ho visto nella mia vita. La determinazione, la fatica che accomuna l'arte e la tecnica, come nel Bolshoi e negli spettacoli dei suoi ballerini professionisti. Questo è il connubio che guida anche l'impresa di famiglia fondata da Iginio Liberali, Luve Group, una multinazionale italiana nel settore della produzione di apparecchi ventilati e scambiatori di calore per il mercato della refrigerazione, del condizionamento e del raffreddamento dei processi industriali. Fondata nel 1986 a Uboldo, in provincia di Varese, a fine 2014 Luve Group impiegava 1.528 dipendenti, più di 624 in Italia e 904 all'estero. Nel 2014 Luve ha realizzato un fatturato consolidato di 212 milioni di euro, quasi l'80% all'estero, in oltre 90 paesi, con la Germania come primo mercato di esportazione. Delle 10 unità produttive che lo compongono, 5 sono in Italia e le altre attive tra Repubblica Ceca, Polonia, Svezia, Russia e Cina. Ma tutto è nato dalla determinazione che Iginio Liberali ha imparato nella famiglia d'origine e dal padre, che lavorava alla Necchi S.p.A. di Pavia, fabbrica di macchine per cucire. Anche grazie alla borsa di studio Vittorio Necchi, che gli consentì di fare uno stage annuale presso l'azienda durante le vacanze estive. Vittorio Necchi ha creato queste borse di studio, 7 borse di studio per i figli dei dipendenti, con un approccio all'azienda molto, molto graduale. Cioè, io da 14 anni ho cominciato tutti gli anni a stare un mese dentro l'azienda e quindi ho imparato l'officina, l'odore dell'olio di taglio delle macchine, la fonderia, eccetera. E quindi quella è stata la mia vita. Essendo figlio di un operaio, il mio desiderio, il mio pensiero era: un giorno voglio diventare importante in questa azienda. Nel gennaio 1956 Iginio Liberali viene assunto dalla Necchi, dove poi viene nominato dirigente, il più giovane, e alla fine degli anni 50, grazie a una diversificazione della Necchi per la produzione di compressori ermetici per frigoriferi domestici, il suo destino cambia. Un intreccio di famiglie imprenditoriali che gli ha regalato non solo esperienza, ma anche ricordi. Ho incontrato i signori di Milano, le sorelle Campiglio, solo a casa Necchi alla Portalupa, che era questa tenuta bellissima. La Portalupa era un'azienda che il signor Necchi diceva che era l'azienda che manteneva l'industria, no? Perché faceva allevamento di fagiani e anatre selvatiche, che aveva anche educato a fare un volo specifico, perché quando si andava a caccia lì, la Portalupa era un'azienda di 20.000 pertiche, tutta destinata a riserva di caccia, dove venivano a cacciare dal principe, il marito della regina d'Inghilterra, ai Savoia. Il signor Necchi viveva da solo la servitù, per così dire, in questa casa che era una pinacoteca piena di quadri bellissimi. Aveva dei canaletto e lui stesso, quando voleva fare lo spiritoso, diceva: ah, ma questo l'ho fatto io, ci ho messo un sacco di vernice, perché l'ho sbagliato, poi l'ho rifatto. Anche il passaggio al gruppo Merloni Elettrodomestici è significativo prima di fare il salto imprenditoriale. Ho imparato moltissimo da questa famiglia marchigiana. I Merloni, il padre Aristide, che aveva lavorato nel nord, era diventato il direttore di un'azienda di Pinerolo che faceva strumenti per pesare, bascule, eccetera. E poi era tornato nelle Marche a mettersi in piedi a fare le stesse cose. Ma da lì imprenditore, si vede, di grande talento e di grande passione. Ha cominciato prima a fare le bombole per il gas liquido e poi i contenitori per il cherosene e poi Vittorio è stato l'uomo che invece ha introdotto gli elettrodomestici, perché hanno comprato un'azienda qui di Milano in Viale Certosa, l'Aglia, ed ha cominciato a fare frigoriferi. Questo è il percorso che hanno fatto tutte le industrie degli elettrodomestici: strumenti per la cottura, poi strumenti per la refrigerazione, poi il lavaggio, e poi alcuni sono andati avanti al condizionamento, ma è stata una vicenda questa più da giapponesi che da italiani. Da questa vasta esperienza, la svolta e la scelta del settore imprenditoriale. L'UVE viene fondata nel 1986 da Iginio Liberali con l'acquisizione di una storica azienda tecnologica, la Contardo. Un marchio molto forte allora, ma gradualmente entrato in declino. Io ho cominciato a fare l'imprenditore che avevo 54 anni, quindi è stata una decisione maturata a lungo. No, a un certo momento ho detto, siccome ho fatto l'imprenditore per conto, perché in effetti poi c'è stato anche il periodo in cui Vittorio Merloni è stato in Confindustria, quindi io ho avuto più spazio in azienda, eccetera. Quando lui è tornato ho detto, senta, io mi sento maturo per fare qualcosa per da solo. In effetti ho scelto un settore che conoscevo, perché il settore dello scambio termico era il settore che forniva l'elettrodomestica, la refrigerazione commerciale, eccetera. Contardo era una magnifica operazione dal punto di vista del nome e dell'immagine, perché Contardo è stato un leader per gli anni 60 in Europa nel suo settore, azienda che poi fondata dal padre, ma che il figlio ha reso grande. Era un'azienda molto disastrata quando io l'ho presa. La LUVE è uno dei primissimi casi in Italia di management buyout, dove Iginio riesce ad acquistare l'azienda con l'aiuto di 3 fondi di private equity. Fin dall'inizio Iginio si impegnò a assumere 180 dipendenti della vecchia Contardo, saliti in breve a 260 come gli originari. Dovevo procurarmi quattrini, perché io avevo solo a quel momento le liquidazioni della Necchi che avevo conservato e la liquidazione di Merloni, che ho dovuto mettere tutto in questa azienda che ho capitalizzato all'inizio per 1,5 miliardi, mi ricordo, io avevo il 20%. Allora erano i primi tempi del venture capital, una mistura di management e denaro che si pensa che possa produrre valore. Andai a trovarmi questa società di venture capital che era torinese, era l'Eurovenca, e venture capital, una venture fortunata, la chiamiamo LUVE, Lucky Venture. Il notaio non me lo voleva neanche registrare. Alla fine questo vecchio notaio mi dice, beh, tutto sommato, siccome sono juventino, LUVE, gliela registro solo per quello. Per distinguersi, Iginio Liberali punta su nuove soluzioni studiate nei suoi laboratori e sulla cura estetica. La chiave di volta sta nell'idea di fare rete, fin da subito, con il Politecnico di Milano. Solo le grandi aziende lavoravano con l'università. Noi abbiamo lavorato col Politecnico da allora, dal 1986, ci lavoriamo tuttora. Cioè il Politecnico per noi è stato una specie di riserva scientifica e di pensiero avanzato che ci ha aiutato tutto il tempo. E per Iginio Liberali, l'avventura di un'azienda è fortunata se ci sono le materie prime per creare un'opera d'arte. Io dico sempre che le aziende sono donne, uomini e idee. Il capitale vero dell'azienda è il capitale intellettuale, la gente che lei ha dentro. Come è motivata, come può crescere, se ha la voglia di crescere e così via. E dico sempre un'altra cosa che va bene anche per questo paese. La materia grigia è la nostra materia prima. L'azienda è un quadro complesso dove ci sono tante figure, tante espressioni, tanti colori che devono essere fuse nel modo migliore per creare un'opera d'arte, se possibile. Da una storia di una grande impresa come quella della Lucky Venture di LUVE alla storia di OnPal, il primo social network immobiliare dove comprare, vendere e affittare casa tra privati. Questa e altre storie, idee e curiosità d'impresa, anche in anteprima, potete trovarle sulla pagina programma di Voci d'Impresa, cliccando nella sezione Extra. Per OnPal, tutto nasce da un'idea di Andrea La Calamita. L'idea è nata in modo un pochino bizzarro, nel senso, il giorno era il 28 gennaio di 2 anni fa, del 2014, verso l'una di notte, perché avevo ascoltato un consulente norvegese che raccontava come l'industria automobilistica, che è cambiata drammaticamente nel 1917 con l'introduzione della Ford T, che poteva essere solo nera, Ford avesse anche inventato i distributori, i concessionari, quelli che negli Stati Uniti sono chiamati dealers, come persone di fiducia dell'imprenditore in una certa zona. Ecco, dopo 100 anni abbiamo un'industria che funziona esattamente nello stesso modo. E siccome avevo un po' il rovello della casa, perché pensavo a come si potesse semplificare il mercato della casa, ho unito queste due cose in maniera creativa e è nata l'idea di costruire OnPal, un sito dove si può vendere, comprare, affittare casa senza intermediari. Quindi, ecco, da questo punto di vista è anche una semplificazione della vita delle persone. Come fanno a avere, diciamo, questo traffico semplice per un momento così importante come comprare e vendere casa? E oggi già il 70% della ricerca della casa passa tramite internet, il 10% circa dal cartello e il resto dalle vetrine dell'agenzia, ma internet è predominante. Allora l'idea è stata: proviamo a fare tutto il flusso dentro internet. Cosa vuol dire flusso? Vuol dire inserire l'annuncio, vuol dire prendere l'appuntamento che si fa tramite internet, vuol dire arrivare a fare l'offerta online e mandare i documenti a casa del cliente, quindi avendo tutto preparato e pronto. Dalla A alla Z fondamentalmente. Cade in un momento in cui c'è la crisi del mattone. Chi vi ha aiutato e come mai è cresciuta in questo momento? Allora, è cresciuta in questo momento perché proprio per la crisi che c'è, quindi transazioni immobiliari che si sono ridotte di oltre il 50% in 7 anni in Italia, c'è un costo dell'intermediazione che è insostenibile perché pesa circa 3 miliardi di euro per i cittadini italiani. Siamo stati aiutati da Davide Serra, che ha investito personalmente in OnPal, vedendo in questa proprio un modo per liberare risorse nel mercato immobiliare. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.